Ad alta voce, Elisabetta Piccolomini legge Jane Eyre di Charlotte Bronte, traduzione di Monica Pareschi. Avevo dimenticato di tirare le tende e anche di abbassare l'avvolgibile. Di conseguenza, quando la luna, piena e luminosa, era una notte bellissima, rischiarò nel suo corso la porzione di cielo davanti alla mia finestra, fissandomi attraverso i vetri, lo splendore del suo sguardo mi svegliò. Destandomi in piena notte, aprì gli occhi su quel disco argenteo e limpido come cristallo, splendido, ma troppo solenne. Sollevandomi un poco, allungai un braccio per chiudere la tenda. Buon Dio, che urlo! La notte, il suo silenzio, la sua pace furono squarciati da un suono selvaggio, penetrante, stridulo, che corse da un capo all'altro di Thornfield. Le mie pulsazioni si arrestarono. Il cuore si fermò. Il braccio rimase paralizzato. L'urlo si spense e non si ripeté più. In realtà, qualunque essere avesse lanciato quel grido spaventoso, non avrebbe potuto riprodurlo di lì a poco. La creatura che aveva prodotto quel verso doveva certo riprendersi prima di compiere nuovamente un tale sforzo. Arrivava dal terzo piano perché mi passò sopra la testa. Mi allontanai dalla finestra camminando sul tappeto senza fare rumore. Mentre mi chinavo per togliermi le scarpe, qualcuno bussò con mano leggera alla porta. «Chi mi vuole?» domandai. «Siete alzata?» chiese la voce che mi aspettavo di sentire, ovvero quella del padrone di casa. «Sì, signore. E vestita?» «Sì. Allora uscite, senza fare rumore.» Obbedii. Rochester era sul ballatoio e reggeva un lume. «Venite con me», disse. «Da questa parte non c'è fretta, ma fate piano.» Portavo delle pantofole con la suola sottile e riuscii a muovermi sulla passatoia silenziosa come un gatto. Lui scivolò lungo il ballatoio e su per le scale, fermandosi nel basso corridoio buio del fatidico terzo piano. Io l'avevo seguito e mi fermai al suo fianco. «Avete una spugna in camera vostra?» mi sussurrò. «Sì, signore. E dei sali? Sali d'ammonio?» «Sì. Andate a prendere tutti e due.» Andai dunque in camera, presi la spugna dal catino, i sali dal cassetto e tornai sui miei passi. Lui mi aspettava con una chiave in mano e, dopo essersi avvicinato a una porticina nera, infilò la chiave nella serratura. A quel punto si fermò e mi disse: «La vista del sangue vi fa star male?» «Non credo, anche se non ho mai provato.» Mentre rispondevo mi percorse un brivido, ma non mi sentii gelare e nemmeno svenire. «Datemi la mano», disse, «nel caso vi sentiste mancare.» Misi le dita tra le sue. «Calde e ferme», commentò lui girando la chiave per aprire la porta. Vidi una stanza che ricordavo di aver già vista il giorno che la signora Fairfax mi aveva mostrato la casa. Era completamente tappezzata, ma adesso la tappezzeria era sollevata in un punto e mostrava una porta che allora era nascosta. La porta era aperta e dalla stanza su cui si apriva veniva una luce, oltre a un suono rauco e rabbioso, quasi il ringhio di un cane. «Venite qui, Jane.» E io passai dall'altra parte del grande letto che, con le tende del baldacchino tirate, nascondeva buona parte della camera. Accanto alla testata c'era una poltrona, con un uomo seduto sopra, completamente vestito ma senza soprabito. Era immobile, con la testa abbandonata sullo schienale e gli occhi chiusi. Il signor Rochester lo illuminò con la candela e in quella faccia pallida e apparentemente senza vita riconobbi il forestiero Mason. Vidi anche che aveva un lato della camicia e tutta la manica quasi completamente intrisi di sangue. «Tenete la candela», disse Rochester, e io mi affrettai a prenderla. Lui andò al lavabo e tornò con una catinella piena d'acqua. «Anche questa», disse. «Obbedì». Prese la spugna, la immerse nell'acqua e inumidì la faccia cadaverica. Poi chiuse la boccetta dei sali e gliela avvicinò alle narici. Di lì a poco il signor Mason schiuse gli occhi con un gemito. Rochester aprì la camicia del ferito, che aveva il braccio e la spalla bendati, e con la spugna assorbì il sangue che gocciolava copiosamente. «Sono in pericolo», mormorò Mason. «Ma figuriamoci, è solo un graffio, non lasciarti impressionare, ragazzo mio, forza! Adesso vado a chiamare un dottore, spero che domattina potrai essere trasportato». «Jane», continuò. «Signore?» «Devo lasciarvi qui con questo signore per un'ora o forse due. Dovrete asciugare il sangue, via via, come ho fatto io. Se si sente svenire, gli accosterete il bicchiere alle labbra e gli farete annusare i sali. Per nessun motivo parlerete con lui. E, Richard, sappi che se osi parlarle rischierai la vita. Prova ad aprire la bocca, ad agitarti e non rispondo delle conseguenze». Al pover'uomo sfuggì un altro lamento e sembrava che non osasse muoversi. La paura della morte o di qualcos'altro chiaramente lo paralizzava quasi. Rochester mi diede la spugna ormai intrisa di sangue e io cominciai a usarla come avevo visto fare a lui. Rimase a guardarmi per un attimo e poi disse: «Ricordati, non una parola», e uscì dalla stanza. Eccomi dunque lì, al terzo piano, chiusa in una delle sue recondite stanze, con la notte intorno a me e sotto gli occhi e le mani una scena sfocata e sanguinosa. Un'assassina appena oltre la porta. Sì, era spaventoso. Il resto potevo anche sopportarlo, ma il pensiero che Grace Poole potesse piombarmi addosso da un momento all'altro mi faceva rabbrividire. In tutta la notte udii solo tre rumori, con lunghi intervalli tra l'uno e l'altro. Uno scricchiolio secco, quel malvagio ringhio canino che avevo già sentito, e un profondo gemito umano. Poi furono i miei stessi pensieri a turbarmi. Quale incarnazione del male si celava nella grande casa isolata per non poter essere scacciata né sottomessa dal proprietario? Qual era il mistero che si scatenava ora col fuoco, ora col sangue, nelle ore più profonde della notte? Che razza di creatura era questa che col viso le fattezze di una donna qualunque emetteva il verso di un demone beffardo e subito dopo quello di un uccello da preda pronto a gettarsi su una carogna? La candela, ormai consumata, si spense. Nel frattempo vidi una luce grigia striare l'orlo delle tende. L'alba si avvicinava. Poco dopo sentii Pilot che abbaiava di sotto dalla sua cuccia in fondo alla corte e mi tornarono le speranze. E non erano infondate. Nel giro di 5 minuti la frizione della chiave nella serratura e poi la serratura che cedeva mi dissero che la mia veglia era finita. Non doveva essere durata più di 2 ore, anche se mi era sembrata più lunga di molte settimane. Entrò Rochester accompagnato dal medico che era andato a chiamare. «Vi avviso, Carter», disse a quest'ultimo. «Avete solo mezz'ora per medicare la ferita, bendarla, portare giù il paziente e tutto il resto». «Adesso ho un'altra incombenza per voi, Jane», disse l'instancabile padrone di casa. «Dovete tornare in camera mia. Grazie al cielo avete le pantofole di velluto. Un aiutante con gli zoccoli sarebbe un disastro in questa situazione. Dovete aprire il cassetto di mezzo della mia toiletta e prendere la fiala e il bicchierino che vi trovate. Svelta!» Andai e tornai al volo con i 2 contenitori. «Molto bene. E ora, dottore, mi prendo la libertà di somministrare io stesso un farmaco, sotto la mia responsabilità. Mi sono procurato questo cordiale a Roma. da un ciarlatano italiano. Non è una sostanza che si possa usare indiscriminatamente, ma in certi casi è una mano santa. Un po' d'acqua, Jane. Mi porse il bicchierino e io lo riempì a metà con la bottiglia posata sul tavolo. Basta così. Adesso inumidite il bordo della fiala. Eseguì. Lui fece cadere nel bicchiere 12 gocce del liquido e lo porse a Mason. Bevi, Richard. Ti darà il coraggio che ti manca più o meno per un'ora. Il signor Mason obbedì. Rochester lo lasciò rimanere seduto per 3 minuti dopo che ebbe deglutito la bevanda. Poi lo prese per un braccio. «Adesso sono sicuro che puoi reggerti in piedi», disse. «Provaci». Il paziente si alzò. «Carter, tenetelo anche voi sotto l'altro braccio. Sta allegro, Richard. Cammina, così». «È vero, mi sento meglio», osservò Mason. «Non avevo dubbi. E adesso, Jane, andate avanti voi, presto, per la scala di servizio. Togliete il paletto alla porta laterale e dite al vetturino che vedrete nella corte o poco distante di tenersi pronto, perché stiamo arrivando. Ah, Jane, se per caso vedete qualcuno in giro, venite in fondo alla scala e tossite». Erano ormai 5:30 e stava per spuntare il sole. Trovai tuttavia la cucina ancora buia e silenziosa. La porta laterale era sprangata. La aprii facendo meno rumore possibile. La corte era tranquilla, ma il cancello era spalancato. E fuori c'era una carrozza di posta in attesa con i cavalli attaccati e il vetturino a cassetta. Mi avvicinai, gli dissi che i signori stavano arrivando. Comparvero Mason, Rochester e il medico. Il primo, sorretto dagli altri due, sembrava muoversi con un certo agio. Lo aiutarono a salire in carrozza e Carter lo seguì. «Prendetevi cura di lui», disse Rochester a quest'ultimo, «e tenetelo a casa vostra finché non starà meglio. Io verrò a trovarlo tra un paio di giorni per vedere come va». «Arrivederci, Dick». «Rochester, dimmi che c'è». «Prenditi cura di lei», ansimò Mason. «Fai in modo che la trattino con affetto per quanto è possibile. Cerca...» Si interruppe e scoppiò in lacrime. «Faccio del mio meglio come ho sempre fatto e continuerò a fare», fu la risposta. Dopodiché Rochester chiuse il portello e la carrozza partì. Fatto questo, si mosse lentamente e con un'aria assorta verso una porta che si apriva nel muro di cinta del frutteto. Convinta che non avesse più bisogno di me, mi preparavo a rientrare in casa quando lui mi chiamò «Jane!». Aveva aperto il portoncino ed era fermo sulla soglia ad aspettarmi. «Venite a prendere un po' di fresco per qualche minuto», disse. «La casa sembra una prigione, non vi pare?» «A me sembra una casa grande e bellissima, signore». «La magia dell'inesperienza vi vela gli occhi», rispose. «E la vedete come attraverso un incantesimo. Non vi accorgete che i fregi dorati sono fango e i drappeggi di seta ragnatele, che il marmo è vile ardesia e il legno lucido truciolato da 4 soldi e ruvida corteccia. Qui, invece...» Indicò il recinto alberato in cui eravamo entrati. «Tutto è vero, dolce, puro». Si inoltrò per un vialetto delimitato da una siepe di bosso, con meli, peri e ciliegi su un lato e sull'altro una bordura di fiori come usava un tempo: violacciocche, garofani, primule, viole del pensiero frammisti ad artemisie, rose selvatiche e varie erbe aromatiche. «E ora, tutte quelle piante avevano una freschezza che può dare solo l'alternarsi di piogge e sprazzi di sole in aprile, seguiti da un bel mattino di primavera. Nel cielo chiazzato di luce, a oriente, stava spuntando in quel momento il sole e il barbaglio rischiarava gli alberi carichi di fiori e intrisi di rugiada del frutteto, illuminando i viali tranquilli. «Posso offrirvi un fiore, Jane?» Raccolse una rosa non del tutto sbocciata, la prima del cespuglio, e me la porse. «Grazie, signore. Vi piace quest'alba, Jane? Quel cielo con le sue nuvole alte e leggere, che certo si dissolveranno al tepore del giorno. Quest'aria serena e fragrante. Mi piace molto. Avete trascorso una strana notte, Jane. Sì, signore. E adesso... siete pallida. Sedetevi, c'è spazio per due. Non avrete remore a sedervi al mio fianco, vero? È forse sbagliato, Jane? Risposi sedendomi, poiché rifiutare mi pareva sciocco. Dunque, Jane, provate a lavorare di fantasia ora. Immaginate di non essere una fanciulla beneducata e rispettosa, ma un ragazzo impetuoso e viziato fin dall'infanzia. Immaginate di trovarvi in un paese lontano e straniero. Lì avete commesso un errore fatale. Non importa di che natura o per quali ragioni. Un errore le cui conseguenze vi seguiranno per tutta la vita e guasteranno tutta la vostra esistenza. Non dico un crimine, badate bene, niente fatti di sangue né atti criminali. Parlo di un errore. Gli esiti di ciò che avete fatto diventano per voi, col tempo, assolutamente intollerabili e allora prendete delle misure per trovare sollievo. Misure insolite, ma non certo contrarie alla legge. Tuttavia, siete infelice, perché la speranza vi ha abbandonato sulla soglia della vita. Il vostro sole di mezzogiorno è oscurato da un'eclisse che, lo sentite, non vi lascerà fino al tramonto. La vostra memoria si nutre solo di ricordi vili e amari. Vagate qua e là, cercando la pace nella lontananza, la felicità nel piacere, il piacere sensuale senza cuore, quello che annebbia l'intelletto e inaridisce il sentimento. Col cuore stanco e l'anima avvizzita, tornate a casa dopo anni di esilio volontario. Fate una nuova conoscenza, come o dove non importa. Trovate in questa persona estranea molte delle buone, splendide qualità che avete cercato per 20 anni e non avete mai incontrato prima. E sono tutte fresche, incorrotte, genuine e senza macchia. Questa compagnia vi rinfranca e vi rigenera. Vi sembra che siano tornati i bei giorni andati, giorni di desideri più nobili, di sentimenti più puri. Provate il desiderio di ricominciare a vivere, di trascorrere il tempo che vi resta in un modo più degno. Mia piccola amica, disse poi, in tono completamente diverso, e anche la sua espressione cambiò, perdendo tutta la sua dolcezza e la sua serietà e facendosi dura e sarcastica. Avrete notato che ho un debole per la signorina Ingram. Non pensate che sposandola mi riscatterei ancora di più? Di colpo si alzò. Camminò fino all'altro capo del viale e quando tornò stava canticchiando non so quale aria. «Jane, Jane», disse fermandosi davanti a me. «Tutto questo vegliare vi ha fatta impallidire. Non mi maledite per aver turbato il vostro riposo?» «Maledirvi? No, signore. Allora stringetemi la mano. Che dita fredde! Erano più calde ieri notte quando le ho toccate sulla porta della camera misteriosa. Quando veglierete ancora con me, Jane?» «Ogni volta che potrò rendermi utile, signore.»